bello buffo in testa, non manca mai a una festa. Davvero giocoliere, palle salta come gli viene, intanto vino nel bicchiere, cade si rialza con i buchi nella casa, jolly. Periferia, tutta la tristezza.